Per quanto riguarda l'autostrada, noi nel 2023 procederemo con la risoluzione della maggior parte delle interferenze, cioè di tutti quelli che sono i sistemi che in qualche modo interferiscono con i nostri cantieri. Stiamo pianificando poi di iniziare il cantiere vero e proprio dell'allargamento del passante per la fine del 2023. Dal 2023 poi i lavori dureranno circa 5 anni per poter immaginare che a fine del 2028 riusciamo a ridare alla città il passante potenziato. Come ricordavamo oggi, attiveremo tutta una serie di cantieri importanti sulla parte verde, 160 ettari di verde, è un progetto che è un unicum in Europa, premiato come progetto all'avanguardia a livello europeo. Oggi è la giornata in cui partiamo con uno dei primi parchi famoso per la città, Parco Nord, dove andremo a riqualificare 17 ettari di parco. Prima di avviare il lavoro autostradale partirete con i lavori di mitigazione, quindi ci sarà un'attenzione verso quello che è gli eventuali disagi che potranno esserci poi con il lavoro autostradale. Sì, partiremo con i lavori di mitigazione, poi sarà un continuo perché insieme poi completeremo parte dei parchi e i cantieri saranno già iniziati. Come ricordavamo qualche mese fa, ricordo che questo è un progetto di cantierizzazione, cioè noi partiremo allargando i passanti in modo tale da mantenere sempre le due corsie, sia in autostrada le tre corsie quando ci troviamo con la dinamica attiva e le due corsie in tangenziale, in modo tale da non andare mai a ridurre il flusso. Credo che i bolognesi, quelli che attraversano il nodo bolognese, capiscano e comprendano bene la delicatezza di non toccare un sistema così delicato come quello del passante.